Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di, signore e signori, Sergio Rizzo, scrittore e giornalista del Corriere della Sera. Che cosa dirà di tutte le cose successe in questi giorni? Soprattutto dei sorrisini dell'Eurozona, del rischio crisi di governo o dei deputati che tra tanti tagli non si tagliano bel niente? Per saperlo non perdete Non ci sono più le mezze stagioni, come sempre sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.